C'è un altro male che ho visto sotto il sole e che grave pesa sull'uomo. È il caso di quello cui Dio concede ricchezze in abbondanza e onori, senza che gli manchi nulla di tutto ciò che può desiderare, ma al quale Dio non ha concesso di poter godere dei suoi beni perché se li gode un uomo estraneo. Questo è vanità e un brutto guaio. Anche se quest'uomo generasse 100 figli, vivesse molti anni e grande fosse il numero dei giorni della sua vita, se egli non trova soddisfazione nei beni che possiede e per di più non ha nemmeno una tomba, io dico più fortunato di lui l'aborto, perché viene nella nebbia e se ne va nella tenebra. Di tenebra è coperto il suo essere. Per quanto non abbia visto né conosciuto il sole, tuttavia la sua sorte resta sempre migliore dell'altra. E se anche potesse vivere 2 volte 1000 anni, senza però poter godere dei beni, non va a finire nello stesso luogo dell'aborto? Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, eppure il suo desiderio non si sazia mai. E allora che vantaggio ha il sapiente sullo stolto? Che serve al poveraccio sapersi destreggiare nella vita? Meglio vedere con gli occhi che vagare con la fantasia. Anche questo è vanità e occupazione senza senso. Ciò che è già ha avuto la sua sorte. Che cosa è ogni individuo già è stato conosciuto. Egli non può contendere con chi è più forte di lui. Infatti, moltiplicando le parole, si ottiene solo di aumentare la vanità. E l'uomo, che vantaggio ne trae? Chissà che cosa è bene per l'uomo nella sua vita, nei giorni contati della sua vita vana, che l'uomo passa come un'ombra. Chi dirà all'uomo che cosa avverrà in futuro sotto il sole?